America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Avete sentito, le dimostrazioni in Libia continuano, non sono più aggressive come lo sono state nei giorni scorsi, c'è una situazione di stallo fra dimostranti, fra l'insurrezione di coloro che vogliono superare la dittatura di Gheddafi e i mercenari o comunque le truppe che restano fedeli al colonnello. Tripoli resta per ora in mano del governo che per molti è un governo ormai uscente, ma detto questo la tensione sale perché si è cominciato a parlare di possibili interventi armati stranieri. Da una parte non si vede una soluzione immediata a questa crisi, il rischio di un bagno di sangue, di una guerra civile è sempre presente, se poi dovessero essere coinvolte anche delle truppe straniere, beh allora ovviamente i nervi dei mercati potrebbero saltare. Perché parlo dei nervi dei mercati? Perché finora ci siamo occupati soprattutto della parte politica, ma c'è un côté economico non secondario, la tensione soprattutto per gli operatori nel mercato del petrolio è altissima. Ieri a New York il prezzo del greggio è tornato a crescere e abbiamo già superato qualche giorno fa la quota di $100 al barile, poi siamo rientrati a quota 97-98, ieri eravamo di nuovo su quota 99. Si attendono ovviamente indicazioni sul lato dell'offerta ed è questo contesto che porta ulteriori preoccupazioni sempre sul fronte economico. Di che genere? Beh, ovviamente di tipo inflattivo. Inflation has declined on balance since the onset of the financial crisis, reflecting high levels of resource slack and stable longer-term inflation expectations. La coda della crisi mediorientale, la coda economica della crisi mediorientale non può essere sottovalutata. Se il prezzo del greggio dovesse saltare, e abbiamo visto un paio d'anni fa quanto il prezzo del greggio possa essere suscettibile di volatilità, e dunque la preoccupazione è alta. Avete sentito Ben Bernanke, il governatore della Federal Reserve, ieri di questi rischi si è parlato in congresso, si è cercato di capire se possono esserci dei ritorni inflazionistici pericolosi nel momento in cui gli Stati Uniti cercano di riprendersi lungo il sentiero della crescita. Nel momento in cui i segnali di inflazione dovessero essere piuttosto forti, beh, è ovvio che Ben Bernanke dovrà procedere con una stretta monetaria e dunque alzando i tassi di interesse si finirà per soffocare un pochettino l'economia americana. E Bernanke ieri ha detto proprio questo, ha detto che se dovesse esserci un aumento prolungato dei prezzi energetici, se si dovessero rilevare dei rimbalzi degli aumenti di questi prezzi anche sulle altre materie prime, e se questi aumenti dei prezzi dovessero tradursi in aumenti dei prezzi alla produzione, dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi al consumo, ebbene la Fed interverrà. Non siamo ancora a quello. Abbiamo visto un rimbalzo qualche settimana fa dei prezzi alla produzione che ha creato qualche preoccupazione fra gli economisti, però l'aspetto inflazione torna a dominare il dibattito economico. È un punto di svolta quello in cui ci troviamo e mi sento di fare un pronostico. Secondo me la Fed cercherà di evitare l'intervento perché attribuirà a questa volatilità dei prezzi energetici un carattere, diciamo così, temporaneo. Ci sono però altri segnali che preoccupano. Sentiamo di nuovo Bernanke. Following the stabilization of economic activity in mid-2009, the U.S. economy is now in its seventh quarter of growth. Last quarter, for the first time in this expansion, our nation's real GDP matched its pre-crisis peak. I segnali che preoccupano sono quelli interni, sono quelli più strutturali. Nel mese di febbraio, lo abbiamo saputo ieri, l'attività manifatturiera negli Stati Uniti ha accelerato di molto il passo ed è arrivato, pensate, al livello più elevato dal maggio del 2004. L'indice ISM, l'indice del settore manifatturiero, infatti salito ieri a 61,4 punti dai 60,8 punti in gennaio. È un risultato di molto superiore superiore alle aspettative e quindi indica che il settore manifatturiero americano comincia a muoversi. Se è vero che non abbiamo una ripresa dell'occupazione negli Stati Uniti, è vero che però l'attività dell'economia si sta cominciando a muovere in modo molto più rapido di quanto non sia successo nel 2010 ed è questo il rischio inflattivo per il paese. E dunque torniamo al pronostico. Il mio pronostico è che la Fed cercherà di evitare degli interventi a breve, non reagirà necessariamente a breve al problema degli aumenti energetici se dovessero esserci, ma interromperà la manovra QE2, e cioè la manovra di easing quantitativo iniziata alla fine dell'anno scorso in giugno, e quindi non sarà rinnovata non ci sarà una QE3. Ricordiamolo, la Fed ha immesso sul mercato 600 miliardi di dollari di liquidità per sostenere la ripresa. Ci sarà un approccio graduale. Basta con l'easing quantitativo a giugno. 6 mesi di pausa e dopodiché una stretta potenziale, anche se molto moderata, a partire da gennaio. Il quadro cambia ovviamente e cambierà se la crisi medio orientale dovesse estendersi, per esempio, all'Arabia Saudita. Allora lì non avremo più scenari su cui puntare e dovremo entrare in territorio nuovo, ma speriamo che questo non accada. Infine, un rischio politico sul fronte economico per gli Stati Uniti, il rischio che ci sarebbe potuto essere della chiusura del governo federale. La scadenza per il rinnovo del tetto all'indebitamento del governo federale è per il 4 di marzo. L'idea era che i repubblicani potessero ostinarsi e non rinnovare la possibilità di indebitarsi a meno di concessione sul fronte della spesa da parte della Casa Bianca. C'è un negoziato, ricordiamolo, in materia di bilancio. Ebbene, il compromesso è stato raggiunto con un accordo di posticipare dal 4 al 18 di marzo, quindi di un paio di settimane, questa scadenza, in cambio di una riduzione, di un taglio di spese di circa 4 miliardi di dollari, quindi una cifra relativamente contenuta, e per poi rimandare il dibattito alle prossime 2 settimane. Per ora il rischio di una chiusura del governo è soltanto rimandata, ma io credo che alla fine in qualche modo ci si metterà d'accordo. Qual è la differenza? La differenza è che i repubblicani alla Camera vorrebbero tagliare dalla spesa pubblica circa 63 miliardi di dollari. Barack Obama offre invece di tagliare al netto spese del governo federale di 6 miliardi di dollari. Come vedete, la forbice sembra in apparenza incolmabile, eppure i miracoli della politica sono imprevedibili e, ripeto, forse in queste 2 settimane qualche soluzione si troverà. Se non la si dovesse trovare, si potrà di nuovo posticipare la scadenza di altre 2 settimane. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno dei Pearl Jam al loro 20° anniversario, Daughter. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.